Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Terrorismo, operazione a Brindisi, arrestato un uomo ed espulso un altro, contatti tra uno dei due e il terrorista di Berlino. ONG e migranti, ancora polemiche, Orlando dice bisogna indagare, non generalizzare, il CSM si occuperà del procuratore di Catania. Secondo Banca Italia le insolvenze di famiglie e imprese sono quasi a livelli pre-crisi, l'inflazione risale al più 1,8%. Venezia, possibile il ticket per Piazza San Marco, fa sapere il comune, ieri la delibera per attivare il conteggio dei turisti. Quasi un mese dall'inizio delle ricerche di Norbert Fehr, alias Igor il Russo, tracce fresche trovate ieri nella cosiddetta zona rossa. Campionato stasera in campo Atalanta-Juventus, domenica alle 12.30, il derby di Roma. Una buona giornata da Simone Spezia. Bentornati e scusate, a effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. C'è anche la nostra pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta video, www.facebook.com/effettogiorno. In apertura parliamo di terrorismo perché da Brindisi parte l'ultima operazione che vede anche contatti con l'attentatore di Berlino. Era in contatto con il tunisino Anis Amri, l'autore dell'attentato al mercatino di Natale a Berlino, il 22enne marocchino Soufiane Amri. Espulso dall'Italia nel dicembre scorso e residente in Germania, individuato nell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Inchiesta che ha portato all'arresto a gennaio di un 27enne congolese, Lutumba Kanga. Ospite da dicembre del centro di identificazione ed espulsione di Restinco nel Brindisino, l'uomo viene ritenuto parte di una cellula salafita operante a Berlino. È accusato di associazione con finalità di terrorismo internazionale. Per entrambi, i poliziotti della Digos di Brindisi hanno accertato la totale adesione all'ideologia dello Stato Islamico, una radicalizzazione che comprendeva anche la disponibilità per attentati kamikaze in Europa. Attraverso il raccordo con le autorità tedesche, le indagini hanno consentito di individuare e neutralizzare l'intera cellula, composta da 11 membri. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo allo scontro tra governo e procura di Catania sui migranti. Il CSM si prepara ad intervenire. Sentiamo. A Livorno, dal palco del suo spettacolo, Grillo tuona. Scusate, c'è il servizio sbagliato, mia colpa. Adesso andiamo a vedere se riusciamo a recuperare il servizio del nostro Andrea Viali sullo scontro, appunto, sul tema delle ONG e dei migranti, dopo le dichiarazioni di ieri del procuratore di Catania. Via. Dopo le polemiche politiche e le divisioni nel governo fra il ministro della giustizia Orlando e quello dell'interno Minniti, il caso Zuccaro arriva anche al Consiglio Superiore della Magistratura. Delle dichiarazioni del procuratore capo di Catania su ONG e migranti, il prossimo 3 maggio si occuperà il comitato di presidenza, fa sapere stamattina il vicepresidente del CSM Legnini. Alcune ONG potrebbero essere finanziate dai trafficanti, aveva detto il magistrato, salvo poi precisare che per ora si tratta solo di ipotesi di lavoro sulle quali non ci sono prove. Non bisogna generalizzare, bisogna fare le indagini. Se qualcuno va punito, interviene di nuovo stamattina Orlando, che ieri aveva invitato la procura etnea a parlare attraverso indagini e atti, a cavalcare le polemiche politiche nel frattempo e soprattutto il Movimento 5 Stelle, che con Di Maio invita a fare chiarezza sulla vicenda. Voglio sapere fino in fondo queste navi dove si spostano, dall'allarme che viene da Frontex e dall'allarme che vengono dai procuratori, e vogliamo andare fino in fondo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ci spostiamo all'estero e poi più avanti torneremo su questa vicenda delle ONG. Sentiremo un'altra di queste ONG che operano nel Mediterraneo, SOS Mediterranee, ma veniamo appunto all'estero e alla Macedonia, dove ci sono stati scontri in Parlamento e decine di feriti. Una crisi che può essere pericolosa, dice Federica Mogherini, una crisi pericolosa e molto intricata. Dura da mesi la crisi politica della Macedonia, che ieri è culminata nell'irruzione in Parlamento di manifestanti del partito di destra dell'ex premier Gruevski, ed è terminata con decine di feriti, tra i quali il leader della sinistra Zaev, uscito dalla zuffa col volto insanguinato. pietra occasionale dello scandalo, l'elezione del presidente dell'assemblea giudicata illegittima dagli aggressori. Ma appunto la crisi è di lunga data. I macedoni hanno votato anticipatamente lo scorso anno in seguito alla caduta del governo Gruevski per lo scandalo esploso nel 2015, quando si scoprì che migliaia di cittadini erano stati segretamente schedati dall'esecutivo. Nonostante questo, la destra ha rivinto le elezioni, ma per governare le servirebbe l'appoggio dei partiti della minoranza albanese. Gli accordi di pace seguiti alla guerra del 2001, infatti, prevedono che questi partecipino sempre del governo. Ma i partiti albanesi ora stanno con il socialista Zaev, al quale il presidente della Repubblica Ivanov si rifiuta però di affidare l'incarico di formare il nuovo governo, proprio per l'accordo che ha stretto con la minoranza albanese. Insomma, un ginepraio da cui il paese, che per il diritto internazionale è ancora la FIROM, acronimo di ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, non riesce a cavarsi. Crediamo che tutti dovrebbero operare per portare il paese fuori da questa crisi, che può essere anche pericolosa, ha commentato Federica Mogherini, alto rappresentante europeo per gli affari esteri. È dal 2005 che la Macedonia è candidata all'ingresso nell'UE. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Siamo all'importante visita del Papa in Egitto. Oggi arriva Francesco. La condanna del terrorismo, il dialogo interreligioso con l'Islam, l'abbraccio ecumenico con la comunità copta. Un viaggio breve, quello del Papa in Egitto, ma ricco di significato. Un viaggio che Francesco non ha mai pensato di annullare, nonostante gli attentati della Domenica delle Palme e i rischi per la sicurezza. Proprio perché, spiegano Oltretevere, il Papa vuole essere messaggero di pace dove c'è più bisogno di pace. E così Francesco interverrà alla conferenza di pace convocata da Ahmed al-Tayeb, grande imam di Al-Azhar, e vedrà il presidente al-Sisi, impegnato ad arginare la minaccia jihadista. Non è escluso che intervenga anche sulle cause più profonde del malessere, come la povertà, la mancanza di educazione, il traffico delle armi. Il terzo appuntamento, poi, non meno importante, è l'abbraccio con Tawadros II, il Papa della Chiesa copta ortodossa, che negli ultimi anni ha pagato un alto tributo di vittime. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alle notizie economiche, iniziando dai dati che sono stati diffusi questa mattina dall'Istat sull'inflazione, arrivando poi a quello che dice Banca Italia sullo stato di avanzamento della crisi. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Andamento del costo della vita in primo piano, con un livello, quello di aprile, di fatto record, perché il più alto da oltre 4 anni, ovvero dal febbraio del 2013. Più 1,8% all'ora d'aprile su base annua, migliore dell'1,4% che si era registrato a marzo. Si tratta della sesta variazione consecutiva positiva. A cosa si deve questa ulteriore accelerazione dell'inflazione? Secondo l'Istituto di Statistica, le recenti festività di Pasqua e poi del ponte del 25 aprile hanno trascinato in alto i prezzi al consumo, in particolare grazie a trasporti e servizi ricreativi. In generale l'inflazione che cresce indica un ritorno ai consumi, con alle spalle evidentemente una maggiore capacità di spesa delle famiglie. Famiglie che, secondo Banca Italia, insieme alle imprese hanno migliorato la loro capacità di ripagare i propri debiti, con effetti positivi sui bilanci bancari. Il rapporto sulla stabilità finanziaria dell'Istituto di Via Nazionale spiega che le insolvenze di famiglie e imprese tornano infatti ad avvicinarsi ai livelli pre-crisi. Sempre secondo Banca Italia, Simone, il sistema bancario italiano mostra segnali di miglioramento, ma rimane esposto a rischi rilevanti. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta per questo punto. Altro punto che facciamo adesso è quello su Alitalia. Alitalia non sarà nazionalizzata e i costi per i contribuenti saranno minimi. A ribadire la linea del governo è il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda. A condizione che si lavori sulla vendita, dice, la compagnia potrà così contare solo sul prestito ponti di circa 400 milioni. Il via libera dell'Europa c'è, spiega Calenda, escludendo che sul tavolo vengano messi altri soldi pubblici per il salvataggio di Alitalia. Un intervento dello Stato, ad esempio con Cassa Depositi e Prestiti, secondo il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, sarebbe un ritorno agli anni peggiori della nostra vita. Ripartirei dal punto, come dire, d'inizio, e cioè dall'esito referendario, per capire però cosa e come si può fare per non buttare l'acqua al bambino, tanto per capirci. Ma questo non significa di poter, come dire, sollecitare il governo a intervenire, altrimenti facciamo un errore e torniamo ai peggiori anni della nostra vita. I sindacati continuano a difendere la scelta del referendum fra i lavoratori, che hanno bocciato il preaccordo con l'azienda su piano industriale e ricapitalizzazione da 2 miliardi. Secondo il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, con le scelte giuste Alitalia ha un futuro. E la UIL chiede di riprendere la trattativa perché, dice Carmelo Barbagallo, il piano industriale era insufficiente. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore Roma. Siamo alle primarie del Partito Democratico che arrivano nel fine settimana, i gazebo sono pronti ma rischiano di essere un flop dal punto di vista dei numeri. L'analisi è di Daniele Biacchessi. A poche ore dall'esito delle primarie del Partito Democratico, l'incognita resta senza dubbio l'affluenza. Il partito è sceso dal 40,81% delle europee del 2014 alle cifre attuali che oscillano, secondo i sondaggisti, tra il 24 e il 27%. I quasi 3 milioni di votanti del 2013 non saranno certamente toccati domenica 30 aprile, perché il periodo intorno al ponte tra il 25 aprile e il 1 maggio non favorisce iniziative politiche di questa portata, perché il numero degli iscritti è complessivamente calato dal 2013, perché pezzi consistenti dell'elettorato sono ormai fuori dal partito. Le previsioni danno per certa la vittoria di Renzi, la cui percentuale è stimata sempre dai sondaggisti intorno al 65%. Dunque tra Renzi, Orlando ed Emiliano non c'è alcuna partita, ma l'interesse verso le primarie democratiche è notevolmente calato nelle ultime settimane. Nella sostanza, sopra il milione di persone il partito ancora può tenere sul piano politico di questi tempi. Sotto quella cifra Renzi si prenderebbe il partito, il cui destino sarebbe però traballante. Questa è l'analisi di Daniele Biacchessi. Veniamo al lato del Movimento 5 Stelle, che si gioca oggi tra le dichiarazioni di Beppe Grillo sui giornalisti e l'annuncio della Cassimatis, la ex candidata a Genova del Movimento 5 Stelle, che resta candidata, ma a quanto pare per se stessa. A Livorno, dal palco del suo spettacolo, Grillo tuona di nuovo contro i giornalisti, attaccando il rapporto internazionale che lo indica come un pericolo per la libertà di stampa, e contro un gruppetto di cronisti in platea arringa gli spettatori dicendo: guardateli e ricordatevi di loro. A Genova, la sua città, dopo la fuoriuscita di consiglieri comunali e regionali, un altro pezzo del movimento si stacca. Marika Cassimatis, vincitrice alle comunarie del 14 marzo e poi sconfessata dallo stesso Grillo, presenta una lista indipendente, senza quindi il simbolo dei 5 Stelle, nonostante la riabilitazione ottenuta il 7 maggio dai giudici. Non ci sono più le condizioni per un discorso democratico, di partecipazione, di condivisione. Il voto del blog non vale più perché c'è un capo politico, allora non va più bene a nessuno di noi e quindi facciamo dell'altro. Ecco. Nel frattempo le scorie giudiziarie proseguono. Oggi in tribunale si discute il ricorso presentato da alcuni esponenti della lista Pirondini, il candidato sindaco ufficiale pentastellato, contro l'esito delle stesse comunarie del 14 marzo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. E questo il quadro, dunque, appunto, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, mentre siamo sempre in diretta sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, così mi potete guardare in faccia e ricordarmi e ricordarvi di me, esattamente come dice Beppe Grillo. Potete ricordarvi anche di Carlo Genta, che mi ha appena raggiunto in studio per parlare della giornata di campionato e giornata sportiva e weekend sportivo che ci attende. Ciao, Carlo, Simone. Ciao. Eccoci. Ciao, weekend sportivo con il campionato di calcio che parte stasera, perché poi in settimana la Juventus avrà qualche impegnetto da nulla, tipo la semifinale di Champions League, gara di andata. E quindi oggi, stasera, si gioca una partita che in sé è bellissima, anche se alla fine per la Juventus potrebbe contare il giusto, dato il vantaggio che ha sulla Roma in campionato, più 8, lo ricordiamo, con la Roma attesa dal derby domenica all'ora di pranzo. Si vede che, insomma, ormai diventerà l'ora ufficiale dei derby, magari. Sì. Comunque, Atalanta-Juventus stasera 20:45. Mentre domani un solo anticipo 20:45, Torino-Sampdoria, gara da centro classifica. Domenica, per l'appunto, Roma-Lazio a mezzogiorno e mezzo, poi un pomeriggio all'insieme delle partite un po' di fine stagione, insomma, diciamoci la verità, perché Bologna-Udinese, Cagliari-Pescara, Crotone-Milan, che pure è importante per entrambe, perché il Crotone non abbandona le idee di salvezza e il Milan deve in qualche modo reagire a un periodo molto buio. Empoli-Sassuolo, Genoa, Chievo, Palermo, Fiorentina, tutto questo alle 15. Si chiude invece domenica sera con un'altra gara estremamente importante che è Inter-Napoli, che ha trascorso la settimana in ritiro. Napoli che starà alla finestra per vedere cosa fa la Roma nel derby, per poi giocarsi le ultime carte per arrivare al secondo posto. Avremo anche la Formula 1, si corre a Sochi in Russia. Nelle prime libere molto bene Kimi Raikkonen, primo tempo sulla Ferrari. Dunque prepariamoci anche ad un weekend interessantissimo dal punto di vista dei motori. Allora grazie Carlo, ti ritroviamo alle 14 in tutti i convocati. Noi prima di andare a sentire cosa succede sulle strade, in una giornata rilevante anche da questo punto di vista, perché il fine settimana del 1° maggio ci sarà un sacco di gente che sta partendo, si prepara a partire, e visto che parliamo di fine settimana lunghi e di turismo, tra poco ci occuperemo del ritorno dei centurioni al Colosseo, i centurioni quelli che si fanno fare le foto, ovviamente, non quelli di allora, non quelli dell'epoca romana. Andiamo in un'altra città turistica e torna da noi Paola Marra, che è l'assessore al turismo del Comune di Venezia. Bentornata, assessore. Eccoci. Buongiorno a tutti. Allora, l'abbiamo richiamata perché, insomma, dopo che ne abbiamo discusso non più tardi di 2 giorni fa, torna in auge questa ipotesi di far pagare un ticket per l'accesso a Piazza San Marco dopo una delibera approvata ieri dal Comune. Ci spiega brevemente in cosa consiste tutto questo? Allora, guardi, io credo che sia opportuno fare il punto, nel senso che questa non è una proposta di sperimentazione previa concertazione con tutti gli enti ed istituzioni della città. Quindi non abbiamo deliberato questo. All'interno del percorso che abbiamo compiuto è stata evidenziata anche questa proposta, che però può essere effettuata in via sperimentale, ma preliminarmente bisogna concertare con tutti questa idea, no? Nel senso che lei sa che in Piazza San Marco noi abbiamo la soprintendenza, poi abbiamo anche da interfacciarci con la Curia Patriarcale, i Musei Civici, la Biblioteca Marciana, poi ovviamente bisogna parlare con la Prefettura, la Questura, la Procura, cioè è una possibilità che però bisogna attuare attraverso una concertazione e successivamente una sperimentazione. E una valutazione anche tecnica, perché non è detto che sia semplicissimo, no? Non v'è dubbio, e difatti i nostri uffici comunali esistono anche per questo, perché chiaramente bisogna anche valutare quali sono le vie d'accesso e come attuarle. Allora grazie anche per oggi a Paola Marr, che è l'assessore al turismo del Comune di Venezia, che è tornata da noi anche sulla scorta di queste notizie che sono emerse. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, e poi tra l'altro tra poco torneremo a parlare di turismo, perché come forse saprete l'ineffabile TAR del Lazio ha annullato la delibera che o meglio l'ordinanza del sindaco Virginia Raggi, che toglieva la possibilità ai centurioni di sostare davanti al Colosseo. Parleremo tra poco, così come parleremo nel nostro giro per l'Italia della vicenda di Igor Norbert Fehr. Ormai è quasi un mese che è sparito nel nulla, se ne trovano tracce fresche sempre nella stessa area, scrive Libero che ci costa questa ricerca 200.000 euro al giorno, e torneremo anche sulla vicenda delle ONG naturalmente. Traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, oppure la nostra pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati dell'operazione antiterrorismo a Brindisi, ci siamo occupati di ONG e migranti, e ci torneremo tra un attimo, dei dati della Banca d'Italia sulle insolvenze delle famiglie e delle imprese di Venezia. Avete sentito, è possibile, anche se via concertazione, il ticket per l'accesso a Piazza San Marco, e poi ci siamo occupati anche della visita del Papa che inizia oggi in Egitto. Torniamo adesso, in apertura del nostro giro per l'Italia, ad occuparci della questione delle ONG e dei migranti. Lo abbiamo già fatto ieri, lo sapete, ci siamo interfacciati, abbiamo parlato con il direttore operativo di Proactiva, che è una di queste ONG che opera nel Mediterraneo, è una ONG spagnola, ci siamo fatti dare anche qualche dettaglio sui finanziamenti che ricevono, tra gli altri c'è anche quello di Pep Guardiola, quindi alcuni finanziamenti si possono dire, altri evidentemente non si possono dire, se se vogliamo, per ragioni di privacy. Il tema è sempre quello, le parole del procuratore di Catania che sono arrivate ieri e sul quale il procuratore di Catania ha fatto sapere che il CSM ha fatto sapere che interverrà il Consiglio Superiore della Magistratura o comunque si occuperà della questione, e sulle quali si stanno scatenando delle forti polemiche. Ha detto il procuratore di Catania che alcune ONG potrebbero essere finanziate dai trafficanti di uomini e che c'è un obiettivo, ci potrebbe essere un obiettivo di destabilizzare l'economia italiana. Torna da noi Valeria Calandra, che è presidente di SOS Mediterranee Italia. Di nuovo buongiorno, bentornata ai nostri microfoni Calandra. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. Allora, eccoci qua, vorrei sapere innanzitutto come ha preso le parole del procuratore. Noi le parole del procuratore le prendiamo come le abbiamo prese anche nei giorni passati. Noi pensiamo che lui stia facendo il suo lavoro, sta facendo le dovute indagini. Ci piace anche aver sentito che lui ha ribadito che non c'è nessuna inchiesta ancora aperta, ma sono solo informazioni e indagini quelle che lui sta facendo. Tuttavia, ovviamente, se ribadiamo ancora una volta che se qualcosa lui troverà e se c'è realmente motivo di aprire un'inchiesta, che questo venga fatto e che venga fuori anche alla luce di chi sono le responsabilità e a chi le ha debita, ovviamente. Calandra, c'è un problema di trasparenza dei vostri finanziamenti, secondo lei? Perché è vero che sappiamo quanti soldi avete, a quanto ammontano i vostri bilanci, conosciamo sappiamo come li spendete, perché sono dati che sono pubblici ed è giusto che siano pubblici, conosciamo qualche finanziatore famoso come nel caso di Proactiva, lo abbiamo detto poco fa, e però capire da dove arrivano tutti questi soldi è la domanda che si fanno molti ascoltatori, dicono insomma ci sono appunto ONG che hanno un budget magari di 3, 4, 5 milioni l'anno, com'è possibile che questi soldi non arrivino magari anche da chi ha interesse a far sì che queste ONG intervengano nel Mediterraneo? Ma guardi, io le devo dire che in un certo senso ci spaventa molto, molto pensare che ci possa essere qualcuno che ha interesse e che lo faccia a livello speculativo. Noi siamo un'ONG abbastanza giovane, fin da quando siamo nati, poi soprattutto l'Italia ha appena un anno di vita, ma fin da quando siamo nati abbiamo, noi infatti nel SOS Mediterraneo Italia non ha un budget poi così grosso. Di quant'è il vostro? Ma siamo intorno ai 400.000 euro. Ora, di questi una gran parte sono stata una generosa donazione di una fondazione che è costituito per noi la colonna su cui abbiamo avviato la nostra attività e con la quale abbiamo potuto contribuire al sostegno della nave, della navigazione della nostra nave, insieme alle due consorelle Francia e Germania che costituiscono il network europeo e che indubbiamente hanno dei finanziamenti molto più grossi di noi. In ogni caso mi piace sempre dire a chi ci ascolta che un'associazione, soprattutto un ONG, ha l'obbligo della trasparenza amministrativa e questo obbligo nel nostro caso si può solo trasformare nella pubblicazione che faremo a breve appena sarà ultimato la dichiarazione dei redditi 2016, in una pubblicazione del nostro bilancio e soprattutto nella piena disponibilità in qualunque momento e per chiunque ne faccia formale richiesta all'esame delle nostre carte. Tuttavia, ecco, vorrei che fosse chiaro che al di là di uno o due finanziatori più grossi, nel nostro caso è stato appunto la fondazione, gli altri sono veramente una enorme quantità di cittadini che ha sentito l'impulso di dover dare una mano alla situazione. E questo è abbastanza normale, abbastanza spontaneo. Calandra, mi scusi, al di là della questione dei finanziamenti, che è un punto, è sicuramente un punto importante, poi là ovviamente starà alla procura, e qua lo voglio dire tutti gli ascoltatori che ce lo dicono, starà alla procura analizzare i flussi finanziari senza tanti forse potrebbe, o a mio avviso, diciamolo chiaramente, insomma. però sarà alla procura appurare questo. Dall'altra parte si racconta nelle cronache di queste ore di telefonate che non sono utilizzabili dal punto di vista giudiziario perché sarebbero state intercettate dai servizi segreti italiani, lo riporta il Fatto Quotidiano oggi, secondo le quali questi contatti con i trafficanti da parte di alcune ONG, non viene specificato quali, ci sarebbero stati. Lei può escludere che ci sia un meccanismo di questo genere? Ma io penso che sì, penso che si vada escluso che una ONG corretta e che si muove nel, diciamo così, nel pieno delle regole che tutte le ONG dovrebbero avere, deve escludere questo tipo di interazioni. Lo deve escludere per tanti motivi, intanto perché non ha un motivo fondamentale, che è quello che comunque la ONG è coordinata da un ente istituzionale, qual è la Guardia Costiera. E quindi che motivo ha di un contatto diretto nel momento in cui l'obiettivo per cui l'ONG si trova lì è quello di andare a fare un salvataggio e il salvataggio viene sollecitato e indicato dalla Guardia Costiera. Quindi cioè non avrebbe, mettiamola così, mi scusi Calandra, lei non ha motivo di crederlo, però non esclude che questo possa avvenire. No, diciamo che per quanto riguarda SOS Mediterraneo non è mai accaduto. Ovviamente non sono nelle condizioni di parlare delle altre organizzazioni non governative. Ripeto, francamente, io ne conosco molte di queste organizzazioni e mi sembrano a livello, diciamo così, operativo molto corrette e sulla stessa linea su cui ci muoviamo noi. L'ultima domanda che le voglio fare è molto brevemente, perché ce lo chiedono gli ascoltatori, se si può sapere il nome della fondazione che poi è il vostro principale finanziatore. Io penso di non avere problemi a dirlo, è la Cariplo. La Cariplo, perfetto. La ringrazio. Grazie a Valeria Calandra per essere stata con noi, presidente di SOS Mediterranee in Italia. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Roma. Adriano Meloni, assessore al turismo del comune. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. L'immancabile TAR del Lazio annulla l'ordinanza con la quale Virginia Raggi aveva fatto sì che i centurioni e i risciò se ne andassero da davanti al Colosseo o complessivamente, diciamo così, nel centro di Roma. Parla il TAR del Lazio, tra l'altro, di un'attività, quella dei centurioni che si fanno fare le foto con i turisti, perfettamente lecita, aggiungiamo noi, lecita finché non avvengono le molestie alle turiste che sono state ampiamente documentate, il taglieggiamento per la foto e quella specie di souk davanti a quello che è il simbolo, uno dei simboli del nostro paese, forse il più famoso. Meloni, il TAR ha detto però anche questo, dice: finito il giubileo, non c'è più l'emergenza e il comune ha il dovere di intervenire con un regolamento più preciso di questa attività. Che cosa intendete fare? Sì, innanzitutto non ha cancellato l'ordinanza, semplicemente ha accordato la sospensiva in attesa del giudizio in merito che avverrà a dicembre. Quindi sì, Meloni, lei ha ragione, mi scusi, però dall'altra parte io aggiungo, l'udienza di merito è fissata per il 6 di dicembre, nel frattempo c'è tutta la stagione turistica romana che... No. Quello è il problema, esattamente, ha centrato il problema in pieno. Questo ovviamente noi stiamo per regolamentarlo, era predisposto il regolamento della polizia locale che vieterà questo tipo di attività. Purtroppo o per fortuna il decreto Minniti è intervenuto e stiamo adeguando il regolamento della polizia locale in base alle prescrizioni del decreto Minniti. Purtroppo perché lei non è d'accordo politicamente, perché è del Movimento 5 Stelle, ma per fortuna perché in realtà vi viene in aiuto, mi sembra di aver capito. È lodevole quello che stipula il suo decreto, ci viene in aiuto, dà più poteri al sindaco, quindi diciamo che è positiva la cosa. Dobbiamo semplicemente adeguare quello che era già stata stilata come regolamento della polizia locale a questo decreto Minniti, quindi sì. È semplicemente dei tempi un po' più lunghi. Sì. Purtroppo è intervenuta questa sospensiva da parte del TAR che, come giustamente ha sottolineato lei, permette a questi signori di ritornare ad importunare turisti in giro per la città davanti al monumento più famoso del paese. Quindi entro che tempi considerate di varare un regolamento definitivo per questa cosa? Allora, il regolamento prevede varie tappe, per cui penso che il comandante Porta l'avrà stilato nell'arco di qualche giorno, però deve anche passare in consiglio comunale, che è un iter un po' più lungo. Sì. Nel mentre, quindi in questa finestra che si apre, che permetterebbe a questi personaggi di tornare ad operare, ho dato mandato al comandante di emanare un altro un'altra ordinanza a firma del sindaco con delle motivazioni magari anche diverse rispetto a quello che poteva essere legate al giubileo, per far sì che non tornassero. Quindi questo è quello su cui stiamo lavorando in questi momenti. Quindi dovrebbe arrivare a breve una nuova ordinanza, in sostanza? Esattamente. A breve una nuova ordinanza per fermare, per tamponare l'emergenza, e poi entro breve immagino un provvedimento definitivo che poi avrà quell'iter che lei ci ha raccontato. La ringrazio. Grazie a Adriano Meloni, assessore al turismo del Comune di Roma, perché ci ha dato anche qualche chiarezza sui tempi e la, come dire, non dico la certezza, ma un'idea del fatto che quel SUC possa non tornare là davanti. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi ci ritroviamo e torneremo su questa ricerca ormai incredibile di Norbert Fehr, alias Igor il Russo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: il terrorismo, l'operazione a Brindisi, è stato arrestato un uomo ed espulso un altro, contatti tra uno dei due e il terrorista di Berlino. ONG e migranti, ancora polemiche. Orlando dice bisogna indagare e non generalizzare, il CSM si occuperà del procuratore di Catania. Secondo Banca Italia le insolvenze di famiglie e imprese sono quasi a livelli pre-crisi, l'inflazione intanto risale al più 1,8%. Il campionato stasera in campo Atalanta e Juventus, domenica alle 12:30 il derby di Roma, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, in diretta video. Beh, sono contento perché tra quelli del Movimento 5 Stelle che ci scrivono che siamo dei servi del PD e quelli dall'altra parte che ci dicono che siamo dei leccapiedi del Movimento 5 Stelle, vuol dire che evidentemente stiamo facendo un buon lavoro. Veniamo nel nostro giro per l'Italia alla vicenda ormai mitologica del cosiddetto killer di Budrio, Igor il Russo, prima noto come Igor il Russo, adesso abbiamo scoperto che si chiama Norbert Fehr. In fuga il primo maggio, lunedì primo maggio, fa un mese esatto dall'inizio di questa fuga, della fuga di questo assassino, mentre si moltiplicano le segnalazioni anche in luoghi improbabili, dai luoghi nei quali viene cercato, nelle campagne dell'Emilia Romagna, si racconta che ormai c'è tanta di quella polizia in giro che non ci sono né più furti né rapine né niente di questo genere. Libero oggi scrive che la caccia a Igor costa 200.000 euro al giorno. Daniele Predieri torna da noi, cronista della Nuova Ferrara. Ciao Daniele. Ciao a tutti, buongiorno. A che punto siamo? Lo dicevi tu, ormai è un mese dall'omicidio di Budrio e ormai le vere ricerche sono 20 giorni oggi, dall'8 aprile, quando Igor e Norbert scappò dopo l'omicidio nel Mezzano, quindi nel Ferrarese, uccidendo una guardia ecologica e ferendone un'altra gravemente. 20 giorni di ricerche che al momento non hanno dato nessun risultato. Gli inquirenti continuano a dire che lo cercano dappertutto, fisicamente lo cercano dentro quest'area sempre lì tra il bolognese e il ferrarese, ma ovviamente parallelamente ci sono tutta una serie di lavori di intelligence su persone che l'hanno conosciuto, che possono avere avuto contatti con loro, tanto più che noi abbiamo scritto già nei giorni scorsi che altre indagini si sono anche, diciamo così, spostate sia in Serbia sia in Spagna, dove lui ha vissuto. La situazione è sempre più ingarbugliata, sempre più seria. Tu dicevi che è un lavoro massacrante, e questo posso confermarlo dalle persone che conosco, turni massacranti, carabinieri notte e giorno lì sul posto che ci danno tutto per tutto. Il problema è che non si trova. Anche stanotte c'era stato un altro blitz intorno alle 2 di notte in un casolare a Molinella, dove sarebbe stato visto qualcuno, però ovviamente i controlli non hanno dato nulla. I controlli non hanno dato risultati e ho letto da qualche parte che avrebbero trovato anche tracce fresche in zona, sì, o no? Tracce fresche ci sono, un segnale importante che su cui c'è un massimo riservo, che noi abbiamo scritto anche oggi, che ci sarebbe stato un fatto strano sempre nel ferrarese a Consandro Argentano, di una persona che sarebbe stata avvicinata da un'altra persona che avrebbe tentato di rubargli, rapinargli la bicicletta. questa persona sarebbe un pakistano che avrebbe indicato questa per quell'altra persona come una persona in estrema difficoltà. Gli inquirenti, anche qui diciamo così, ci sono ovviamente fonti diverse, sì. C'è chi dice che era lui, c'è chi non era lui, però il problema è che a quanto risulta gli inquirenti stanno sostenendo come tesi che lui ovviamente è allo stremo dopo 20 giorni di sopravvivenza, sì, in una situazione, sì, proprio primordiale. Vabbè, vedremo come andrà a finire. Io intanto torno a ringraziarti, Daniele Predieri. Se non fosse un duplice omicida e forse autore di altri omicidi ancora, insomma, battute come quella che ci scrive un ascoltatore, Igor è come lo Yeti, insomma, ci starebbero pure, fanno anche sorridere, però insomma, appunto, stiamo parlando di un assassino. A chiudere, una vicenda che ci riporta sul tema dei vaccini e ci riporta alla vicenda di Emanuela Petrillo. Sapete chi è? No, non lo sapete perché all'inizio il nome non era uscito. Si tratta di quell'infermiera che è stata accusata di non aver vaccinato almeno 500 bambini in una ASL veneta, si sospetta che abbia fatto lo stesso anche nell'ASL dove lavorava precedentemente, e però lei sta respingendo tutte le accuse. Dunque, come è dovuto in una trasmissione garantista come la nostra, abbiamo in linea l'avvocato Paolo Salandin. Avvocato, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Noi abbiamo sentito l'ASL l'altra volta. L'ASL sembra avere delle prove, Salandin, inoppugnabili, nel senso che i bambini che sarebbero stati vaccinati o non vaccinati dalla sua assistita in realtà non hanno gli anticorpi, cioè hanno fatto l'analisi del sangue e hanno verificato che gli anticorpi non ci sono. Dunque... qui noi siamo in attesa, sono prove che sono già state poste all'attenzione della Procura della Repubblica di Treviso e che hanno fatto l'archiviazione. Ora sia stata riaperta l'indagine e quindi mi auguro che l'indagine che era già stata fatta dai NAS, quindi da un reparto specialistico dei carabinieri che non aveva ravvisato l'indagine all'insaputa della Petrillo nessun elemento contro di lei. Qui c'è quindi adesso una riapertura. Faremo vedere se verrà fatto un incidente probatorio, quindi nel contraddittorio con le parti, e valuteremo tutte le problematiche relative al vaccino, quindi anche il mancato attecchimento, percentuale di mancato attecchimento che spesso c'è in taluni bambini. Il campione dell'ASL era anche ridotto. Sì. Quanti bambini erano? Quant'era il campione? 25 bambini, ed è però risultavano tutti. C'era un risultato, un 80%. Che non aveva gli anticorpi. 80%. Comunque importante, però su un campione, mi lasci dire, non rilevantissimo. Adesso aspettiamo anche dal Friuli un campione più importante. In Friuli la dottoressa Petrillo ha vaccinato circa 6.000 persone dal 2009 al 2015, quindi adesso mi pare anche strano che non sia accaduto niente in Friuli, che non sia accaduta un'epidemia, perché a questo punto se non avesse vaccinato 6.000 persone probabilmente qualcosa, non dico un'epidemia. Ma lei come si sarebbe arrivati a queste accuse? Perché la segnalazione è arrivata da due colleghe, no, se non sbaglio, della sua assistita. È arrivato dell'impressione di sue colleghe, di operatrici. No, lo sappiamo, l'impressione era che dice non sentivano i bambini piangere, dice i bambini di solito piangono quando vengono vaccinati, eccetera, eccetera. E lei dice che è stata invidia da parte di queste colleghe? Diceva che il clima lavorativo non era positivo, ora da qui a parlare di invidia o altro non lo so. So che la signora Petrillo respinge di aver adempiuto il suo dovere professionale. E quindi dobbiamo attendere gli esiti e possibilmente degli esiti in cui potremo anche partecipare come difesa. Che tempi ci sono, avvocato, giusto per capire? Probabilmente la settimana prossima ci saranno i risultati del Friuli, che secondo me sono molto importanti, anche perché qui il campione è di 200 bambini, quindi è già un numero importante, beh, decisamente più di 25. Più di 25. La ringrazio, sì. Grazie a Paolo Salandin, sì, avvocato appunto dell'infermiera, aspettate, ritrovo il nome, Emanuela Petrillo, appunto me lo ricordavo bene, ma non ero sicurissimo. Il traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.